questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. L'applauso è per Flavia Pennette e Fabio Fognini. Cominciamo così e cominciamo da qui. 800 24 00 24. Pardo sta arrivando, Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Pennette e Fognini invece agli ottavi degli Australian Open, con Fognini che ha battuto in tre set Sam Curry 7-5, 6-4, 6-4, e agli ottavi troverà un avversario facile, semplice, il numero uno, il re del mondo, Novak Djokovic. La Pennette invece ha battuto la tedesca Mona Bertels 6-1, 7-5, e dunque pure approderà agli ottavi. Avversaria sarà la Kerber. Tra le big agli ottavi anche Serena Williams e la cinese Lina. Tra gli uomini Ferrer e Berdych, ma avanzano anche Sara Errani e Roberta Vinci, coppia regina del tennis mondiale, nel doppio. Sono arrivata ai quarti battendo l'estone Kanepila ceca Voravova in tre set. Cominciamo da qui e cominciamo così con Flavia Pennette. Io ero un po' negativa sinceramente, perché comunque avevo la sensazione come se avessi dato un pugno a una parete, mi faceva molto male la mano, ma quello è un problema che insomma l'edema osseo ti dà, no? Questa sensazione di dolore. Però abbiamo lavorato molto bene, perché comunque mi sono dovuta fermare 6 giorni, io non ho giocato per 6 giorni, abbiamo fatto un team di trattamento, lavorato fisicamente perché almeno per arrivare comunque sia alla partita fisicamente in una condizione buona. Però ero un po' in dubbi, sì. Questa era Flavia Pennette. Voglio chiedervi una cosa: ma voi ci andreste a giocare a calcio in Brunei per una cosa tipo 170.000 euro? No, ve lo chiedo così, 800 24 00 24, liberi di rispondermi se ne avete voglia, anche via messaggio 349 238 6666. Intanto era prevista per domani la presentazione ufficiale di Clarence Seedorf, neo allenatore del Milan, in coppia, sarebbe stato un bel duetto, magari anche Canoro con Silvio Berlusconi, invece Berlusconi non può, ha degli impegni, dunque tutto slitta questa presentazione ufficiale. Sarà, credo, normale conferenza stampa prepartita di Seedorf domani prima del debutto con il Verona. Credo che Seedorf abbia un record, poi parliamo anche di questo. Allora, primo allenatore del mondo, credo, a firmare un contratto in ordine di tempo, firma del contratto e primo allenamento da professionista, da allenatore professionista della carriera. È arrivata prima la firma del contratto, inchiostrato per 3 milioni netti, e poi è andato a fare allenamento. Penso non sia mai successo nella storia del calcio, credo, forse nella storia dello sport. Credo sia un record, dunque Seedorf già uomo dei record. Sentiamo cosa ha detto Galliani sul suo nuovo allenatore. Ho parlato con Clarence proprio un minuto fa e quindi mi ha detto che è molto soddisfatto e che ha avuto sensazioni positive, tutti molto molto collaborativi, per cui l'ho sentito carico e molto positivo. Clarence, io credo che darà una scossa a questa squadra. Se rifarà da allenatore quello che ha fatto da giocatore, noi saremmo molto molto contenti. Questo era Galliani. Tra gli ascoltatori si vede ci sono un sacco di fuori classe del tennis, perché scrivono: ammazza che fuori classe, hanno battuto la Pennette e Fognini. Vabbè, cioè sono tennisti che arrivano agli ottavi di finale degli Australian Open, non del torneo dei bar. Stiamo a disquisire sul livello degli avversari, mio caro, che dici? Questo era comunque Galliani su Seedorf. Prandelli invece, che devo ancora sentire parlare male di qualcuno, evidentemente non ha una grande vena polemica il nostro CT, principe dei democristiani, ha detto: il prof non sbaglia mai a proposito di Seedorf, dunque va bene anche lui. A Prandelli va bene proprio tutti. A Conte invece Seedorf va bene? C'è Conte su Seedorf? Non lo troviamo, lo troveremo, eccolo qui. Il messaggio che è stato così, che si è cercato di mandare, si è voluto comunque trovare una persona, un campione che ha vinto tantissimo nella sua carriera, conosce benissimo alla perfezione l'ambiente Milan, sicuramente come allenatore non ha esperienza, però conoscendo Clarence da avversario, sia da calciatore che come allenatore, penso che lui possa avere tutto per diventare un grandissimo come allenatore. Non conta da dove si parte, ma conta dove si arriva. Lo dissi il giorno della mia presentazione alla Juve, quando mi chiesero che ero la quinta, sesta scelta, se ero contento. Dissi: non conta da dove si parte, ma conta dove si arriva. Conte fa anche il filosofo, dunque, conferenza stampa di ora, presentazione della partita di domani con la Sampdoria. Vi dico ancora questo prima del traffico, anche di questo parleremo più tardi. Sempre sul fronte Milan è stato fissato un salary cap alle operazioni che Galliani, in quanto amministratore delegato in coabitazione responsabile dell'area tecnica, dunque alle operazioni di mercato che può condurre in piena autonomia. Il salary cap è di 25 milioni di euro per l'acquisto di un singolo giocatore, e l'ingaggio del giocatore che Galliani può ingaggiare non può superare i 10 milioni, quindi è stato fissato questo salary cap. Se il giocatore costa entro i 25 e non guadagna di più di 10 milioni lordi, allora Galliani può condurre l'operazione in autonomia. Tanto per fare un raffronto, l'operazione Balotelli è costata 20 più 8 al giocatore, 20 milioni per l'acquisto più 8 milioni lordi al giocatore, quindi un'operazione che Galliani potrebbe condurre da solo. Questo è il senso di gioco che è uscito. Mi sembrano cifre realistiche per una squadra ambiziosa. Mi pare invece che il salary cap di Toir sia di monte ingaggi 2 milioni e mezzo di euro. Questo non mi sembra invece un salary cap realistico per una squadra ambiziosa. Però intanto l'Inter, che non acquista, vende a peso d'oro, perché c'è a quanto pare un'offerta del Borussia Dortmund per Ranocchia, 7 milioni, non mi sembrano pochissimi per un giocatore che non sta facendo benissimo nelle ultime stagioni, ma l'Inter dice no, ne servono almeno 15, quindi giocatore dell'Inter a peso d'oro. Ne parla di tutto questo e di altro ancora, continuiamo a parlare subito dopo il traffico. 800 24 00 24, numero verde. Convocati. Ragazzi, preparatevi perché si parte. Roberto da Modena: a che ora si parte? Te lo dico dopo, scrive Andrea da Pinerolo: per 170.000 euro vado dove vuoi. Ne ho un altro, anzi ne ho molti altri. C'è questo, aspettate. Se qualcuno è disposto a pagare tanto per vedere una sessantenne non proprio in forma a giocare, andrei volentieri in Brunei. Pardo, andresti in Brunei a giocare per 170.000 euro? Oh, 170.000 euro all'anno? Sì. All'anno? Sì, stagione. No, non andrei. Non andresti? Ma no, in Brunei no, dai. Ma come no? Sei peggio di Matteini. Ma no, dai, in Brunei, voglio dire. Ma io ci andrei. Io a 170, in Brunei, villa sul mare. Davide Matteini, sì, invece, sì. Giocatore... Io sì, se il sultano mi vuole, io vado. Proposte in Italia? Proposte in Italia? Zero. In Italia niente. Vabbè, dai, Vado. Salvo il tutto cuoio, cioè l'ultima squadra. Vado, scusami. Vai. No, perché questo Davide Matteini, io sinceramente non ricordo. Ha giocato, sì, nel Parma, nel Livorno, nell'Empoli. Nell'Empoli. Te lo ricordi? Sì, nell'Empoli me lo ricordo. Nell'Empoli, va bene. Giocava nel tutto cuoio, non so bene in quale categoria. Ebbene, fa il derby col cuoio Pelli, sì. Sì, che non so, no, ti confesso l'ignoranza. Però Matteini l'hanno chiamato in Brunei e gli hanno detto: ok, te e un tuo compagno toscano, che non so, venite a giocare in Brunei, 170.000 euro, villa sul mare. Però a lui non andava bene, è tornato. Sentiamo perché. No, un'isolettina, per quanto può essere come Monte Carlo, un'isola piccola dove tutti pregano dalla mattina alla sera. Non c'è una discoteca, non c'è un pub, non c'è... No, è tutto diverso dall'Occidente, ecco. Non ci combina niente. e quindi per viverci devi essere nato qua, perché sennò è veramente dura. Sì, ho capito, ma se devi prendere anche 150.000, 170.000 dollari e impazzisci, ma ritorno a casa. No, però per quanto riguarda l'aspetto economico è sicuramente importante, però no, voglio tornare in Italia, col procuratore ho già parlato, quindi si cerca di recuperare qualche situazione magari che c'era, ma ha detto che ci sono già dei contatti, quindi vediamo un attimino. Adesso vado giù, prendo quelli che vendono gli accendini in metropolitana e glielo faccio sentire. Ho capito. Però anch'io. È stato onesto, dai, cioè, voglio dire. No, ma io guarda, sono quello più lontano dall'idea di fare demagogia sui stipendi dei calciatori che guadagnano quanto meritano. Però uno che dice che è un giocatore di nessun livello, a meno di non, certamente di un alto livello, che dice no, c'è a 170.000 dollari. Gli sputo sopra perché in Brunei. Innanzitutto sono dollari, attenzione, quindi sono 130.000 euro. Ah, beh, io vado lo stesso in Brunei. Ma no, ma cosa guadagna? Cioè, voglio dire, ha pescato il jolly del Brunei, adesso dice no, non li voglio perché si prende. Avrai soldi da parte, che ne so, non è che lo puoi obbligare, povero ragazzo, a vivere. Povero ragazzo, a vivere in Brunei. Vabbè. Io, Sultano, io vengo, Saluto e ringrazio Gianni De Biasi, intanto. Ciao Gianni. Buongiorno, ciao Carlo, ciao Luigi. Senti, Gianni, io credo, dicevo prima, sì. Forse Seedorf ha fatto un record, cioè ha firmato il primo contratto da allenatore professionista, anche qui vogliamo parlare di soldi, mi pare 3 milioni netti a stagione, e dopo aver firmato, mi sembra di sì, fino al 2016. Poca roba, due soldi. Ma comunque ha firmato il primo contratto da allenatore professionista prima ancora di dirigere il primo allenamento da allenatore professionista. Se vuoi è un gioco di parole, però a me colpisce. Sì, un'anomalia assoluta. È chiaro che Seedorf io lo ritengo una grandissima persona, grande calciatore prima, e credo una persona con grande intelligenza che saprà probabilmente ritagliarsi un ruolo importante nel mondo del calcio come allenatore. Credo che potesse fare anche il dirigente, sinceramente. Però mi sembra un po' troppo partire immediatamente dal Milan, ma è chiaro che il Milan c'è anche una filosofia di un certo tipo, dove solo chi ha giocato nel Milan può allenare il Milan, e quindi questo diventa per lui sicuramente motivo di grande impegno e di grande soddisfazione da tutti i punti di vista, perché è stato bandiera del Milan per fino a qualche anno fa, e direi che è un giocatore è stato di grandissimo livello, ma come ripeto, è giocatore intelligente, allenatore in campo e sicuramente uno che è predestinato a farlo. Sì, parte dal gradino altissimo, parte dal tetto, quindi la pesi come Prandelli, il prof non sbaglia mai, quindi farà bene. Ma io credo che lui farà bene sicuramente, anche se arriva in un momento particolare, ma questo sicuramente può dargli solo un vantaggio, perché il Milan ha fatto finora una stagione deludente e da qui in avanti potrebbe soltanto trarne vantaggi da questa situazione. Pier, si parla molto dell'abilitazione di Seedorf a titoli, non a titoli, per giocare, scorso allenatori per corrispondenza o giù di lì. Io, estremizzando un po' il pensiero, Gianni De Biasi non sarà d'accordo perché ovviamente difende la categoria, però sono comunque per il libero mercato degli allenatori, senza patenti, senza, cioè se uno vuole allenare, se c'è uno che gli dà la squadra, poi fa bene, ci riesce. Ma questo vale in assoluto. Però sì, a me anche sull'ordine giornalistico, insomma, esatto, lunghissima, esatto. Storica battaglia, per carità. Penso che insomma qui c'è un datore di lavoro e c'è un professionista. Il professionista sicuramente deve avere dei requisiti, e questi requisiti devono essere professionali, quindi deve aver fatto dei corsi eccetera. Però è anche vero che alla fine, se il datore di lavoro ha fiducia nel farsi allenare da quel signore lì, cioè io credo che la componente del talento individuale sia una componente poi alla fine decisiva. Sì, ovviamente. Comunque, un po' lo scopriamo, voglio dire, cioè, manca io, tanto. Io non ho, come diceva giustamente il mister, non ho dubbi sulla personalità di Seedorf. Adesso scopriremo se dal punto di vista della qualità nell'arte dell'allenare, che chiaramente è un lavoro con la sua specificità, se questo riuscirà a farlo come si deve. Questo è il vero punto interrogativo, perché non è detto che chi è stato un grande giocatore poi diventi automaticamente un grande allenatore. Però insomma, la testa di Seedorf mi sembra una testa da leader, e quindi mi sembra che abbia l'intelligenza necessaria e il potenziale per poter far bene. Sì, tra l'altro un altro interrogativo, un'altra domanda, dubbio che ho su questa nuova organizzazione, mister, che Seedorf vuole, cioè Stama allenatore per la difesa, si dice, Crespo per l'attacco, stile football americano. Sì, ma va benissimo, voglio dire, ha la possibilità di farlo, ha la possibilità di decidere, ha la possibilità di scegliere e di spendere quello che vuole. Mi sembra di capire, uno che guadagna 3 milioni di euro netti a stagione, credo che abbia le carte in regola per poter stabilire anche determinate gerarchie all'interno del suo staff. Però è tutto da verificare. Io credo che un minimo di esperienza, anche a livello di settore giovanile, anche a livello di gavetta pura, non faccia mai male, anche se tu hai le qualità straordinarie. È chiaro che ultimamente, seguendo le orme del grandissimo Pep Guardiola, ha fatto più danni della grandine da un certo punto di vista, sì. Perché ognuno ha cercato di pescare in casa o da qualche altra parte il nuovo Pep, e poi alla fine si è ricreduto, perché poi le cose sono sempre più difficili. È chiaro che le cose poi, adesso rimettiamo in chiaro la situazione. Io credo che nel calcio, fin quando l'allenatore non sarà chiamato a far parte integrante di un progetto, io credo che partiamo sempre col piede sbagliato. In Italia purtroppo siamo abituati così. L'allenatore viene interpellato poi alla fine, se a cose fatte, spesso e volentieri. Non tutti si chiamano Mourinho o chi per esso, che decidono di prendere Tizio, che è Sempronio, e se non lo fa un casino. Molte volte gli allenatori sono condizionati da queste situazioni. Ne avrei tante di cose da dire, purtroppo. Immagino. Ti chiedo ancora una cosa, Gianni, prima di salutarti e ringraziarti naturalmente. Come valuti la stagione di Mazzarri? E poi su Conte io ho un pensiero, e cioè ovviamente sta facendo, ma non bene di più, cioè, non, l'aggettivo trovatelo voi, anzi non serve perché parlano i risultati, però io resto convinto del fatto che un allenatore come Conte, così stressante, possa reggere non più di 3 stagioni, quindi... la dico grossa, sarebbe lungimirante per lui e per la Juventus separarsi prima di consumare questo rapporto, cioè di consumare per cioè di esaurire per consunzione questo rapporto. Esagero? No, dici delle cose intelligenti. Io dico una cosa invece, io credo che Conte sia ancora un giovane allenatore con tutti gli entusiasmi e tutte le pulsioni del giovane che ha ancora una voglia pazzesca di far vedere che lui è al centro di tutto. Io credo che lui poi viva una condizione straordinaria, perché lui ex capitano della Juve, grandissimo giocatore, tutto il resto, arriva, ha vinto un campionato, ne ha vinto un altro. Adesso io credo che stia spingendo tantissimo sull'acceleratore per certi aspetti. Potrebbe probabilmente modificare leggermente il suo carattere, ottenere sempre gli stessi risultati senza magari dare in escandescenze o piangere quando vede che le cose funzionano male, cioè essere un po' meno espressivo anche a livello di visivo, televisivo. E De Biasi? Cioè De Biasi sei tu. È bravo, lo consiglio. Ma è impegnato con la nazionale albanese, quindi è sotto contratto. Mazzarri? Mazzarri, io credo che fino ad ora abbia fatto bene, anche lui sicuramente ha dei problemi, pensava di trovare una situazione diversa all'Inter, solo quando sei dentro le realtà riesci a viverle e a capirne le difficoltà. Noi siamo portati a giudicare da fuori, come diceva Pierluigi prima, grande apertura per tutto, grande possibilità per tutti di arrivare da qualsiasi parte, però ti rendi conto delle realtà che vivi quando ti confronti con delle persone. Tu hai 25, 26, 27, 30 persone da gestire, e più nome hanno e più difficili sono da gestire, e credimi che non è facile. No, ma ci credo. A volte il nome supera veramente la qualità intrinseca del sicuro del nome. Sono delle aziende di medie dimensioni qualche volta. Gianni, grazie, sì. Buon lavoro, ci mister. Vediamo domani, grazie, mi sa, vero? Un abbraccio, ciao Pierluigi, ciao. Vedete domani. Dove? A Roma. Roma per mister? Livorno, Roma 18. Ci vediamo domani. Tutti davanti a Mediaset Premium. 4:30 allo stadio. Io vi ascolto, arrivo dopo però. Pierluigi Pardo, stai lì, abbiamo la borsa, poi cominciamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Alla centro c'è Inzaghi, ma Pirlo era di spalle e non è riuscito a verticalizzare. L'attacca Heinz dal fondo e la cross, Inzaghi non ci arriva, attenzione al limite, Seedorf prova a liberare il destro, Seedorf va in percussione, il tiro, sì. Rete, rete, rete, Seedorf 2-0. Tutti convocati. Conta allenatore ideale per questa classe di calciatori viziati e scommettitori, scrive un ascoltatore. Un altro, caro ascoltatore, gentile ascoltatore, non è questione di palle o non palle, io il messaggio lo leggo ma non lo capisco. È questo: come al solito, secondo voi le regole in Italia non valgono? Le regole in Italia non valgono. Voi giornalisti non capite che fate del male ogni volta che pensate che ci sono delle regole e voi non volete rispettarle. Non l'ho capito se si riferiva alla questione del libero mercato, dei patentini, degli esami di Stato, eccetera. Io confermo, sono contrario e Pardo pure. Sì, sono... no, ma... cioè, in tutte le cose della vita, questo discorso non riguarda ovviamente soltanto i patentini da allenatore, ma riguarda proprio in generale... Sì, sì, sicuro, Piero. La società, sicuro. No? Sicuro. Regolamentare o non regolamentare? È chiaro che regolamentare, gli ordini professionali sono nati perché devono dare determinati... garanzie. È chiaro che si parla a un medico, questo medico deve essere questo è chiaro, però è ovvio. Detto questo, ci sono lavori nei quali poi secondo me ci può essere un eccesso di regolamentazione. Cioè qui nessuno poteva sapere la vera forza di Guardiola, la capacità di diventare quell'allenatore che è prima che avesse un'esperienza veramente importante. Sì, aveva fatto la cantera del Barcellona, però voglio dire, non si sapeva, no? E quindi poi alla fine la cosa fondamentale è il rapporto fiduciario che deve esistere tra il datore di lavoro. Appunto, io sono proprietario di un club, a fare l'allenatore sono libero di chiamare un mio giocatore, il mio giardiniere, chi ne ho voglia. Poi sarà il mercato a dire se ho buttato via i miei soldi oppure no. È chiaro che questo è un discorso molto generale, dice bene Pierluigi Pardo, che qui non vale per i medici, non vale ma non so quanto diritto di cittadinanza possa avere, però non lo so. Io ho sempre trovato aberrante il fatto che uno che si laurea in legge per dover fare l'avvocato deve fare le fotocopie per 2 anni per legge gratis in uno studio legale. Questo non l'ho mai capito, però vabbè, sono discorsi molto che esulano di parecchio rispetto ai temi sportivi. Maurizio Roma, buongiorno. Buon pomeriggio a voi. Dica. Allora, senta, io volevo, intanto ascolto spesso la vostra trasmissione, mi piace molto, e poi se mi è consentito in calcio cercherò di essere molto breve, perché è una cosa che Luigi Pardo se sente. Dica, certo. Allora, la cosa che volevo dire è questa: il calcio italiano secondo me vive una dicotomia piuttosto stridente, e è questa. Allora, si dice che il campionato italiano è modesto innanzitutto perché non vengono più giocatori forti dall'estero e perché sono solo 2 o 3 squadre egemoni e tutto il resto è mediocre. Intanto su questo faccio una piccola digressione: se squadre come il Catania e il Bologna, faccio l'esempio di due che l'anno scorso andavano benaccio, devono vendere i loro migliori giocatori, e quest'anno il Verona che va bene da Giorginio al Napoli, poi parliamo di mediocrità del campionato italiano. Poi l'altra parte invece riguarda all'estero: la Juventus dovrebbe andare forte, faccio l'esempio per tutte le altre squadre, in Champions League. Se si comincia a dire che un giocatore come Pogba deve essere venduto immediatamente a giugno perché gli danno 50 milioni, sempre tenuto conto delle difficoltà, è chiaro, economiche delle società italiane, pare che all'estero non siano meglio, a parte i magnati arabi. C'è un signor Tardelli che ha giocato per tutta la sua vita nella Juventus, mi pare tranne le ultime 2 stagioni, perché poi la Juve dava all'Inter, sì, poi era andato all'Inter, ecco, e quando erano a fine carriera, però che avevano dato tutto. No, Maurizio, bisogna, anche qui valgono le leggi di mercato, come nel discorso molto diverso. Ma scusa, sopra. Volevo dire, poi lascio la parola, sì. Chiedo scusa, volevo dire, però allora, delle due l'una: come facciamo a competere in Europa se i migliori giocatori li diamo sempre al Manchester United, al Paris Saint Germain, e poi si pretende che la Juve, sì, può avere una botta di, come si dice, passare il turno. Beh, però Maurizio, non sarebbe stata una botta di fortuna? Cioè, la Juventus, per così come è strutturato un girone di quel tipo, ti aspetti che lo superi, al di là delle valutazioni di mercato e del fatto che non possiamo competere con gli arabi, con Abramovic, eccetera, eccetera, no, Pierluigi? Sì, ma io... Valgono le leggi di mercato anche qui? Valgono leggi di mercato, e in questo momento economicamente noi siamo una serie a due rispetto alle superpotenze. Questo è un dato di fatto, insomma. Poi abbiamo ancora una grande tradizione, quindi riusciamo ancora comunque a invogliare un certo tipo di giocatori a venire in Italia, un giocatore di fascia alta, magari non altissima di fascia alta, nel caso di Tevez, Higuain, Mario Gomez che sono venuti quest'anno in Italia, Strootman e gli altri. Sì. E, però è ovvio che non siamo a livello economico di altre società, quindi io non ci trovo niente di clamoroso che la Juve possa pensare di vendere a 50-60 milioni Pogba. Anzi, secondo me sarebbe clamoroso il contrario. Poi quei 50-60 milioni li spenda per migliorare la squadra, magari compra tre giocatori da 20 milioni. La provocazione certo. Del nostro ascoltatore è vera, certo, è chiaro che se alla fine sei costretto a vendere perché sei in difficoltà, come fai a superare, a colmare il gap? Ha ragione, è un problema, insomma, però qui o si aumentano i ricavi, cioè il punto vero è o si aumentano i ricavi oppure c'è poco da fare, insomma, non è che i soldi si producono. E detto questo, per alla voce tentativo di aumentare i ricavi, credo che la Juventus sia la società all'avanguardia nel calcio italiano, per struttura, stai proprietà, museo, merchandising, eccetera. Mi sembra che sia l'unico club italiano a gestire le cose in maniera moderna, in modo moderno, non in modo fantascientifico, ma in modo moderno. Detto questo, insomma, è così. Mi sembra che sarebbe clamoroso se la Juventus dovesse rinunciare ad un'offerta di 50-60 milioni per Pogba, visto come stanno le cose. Alessandro, provincia di Verona, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Niente, io volevo intervenire su due aspetti, se era possibile. Uno sul fatto di cui parlavate prima, della, diciamo, tesserino non tesserino per quanto riguarda le qualifiche di allenatore, piuttosto che io la penso esattamente come voi, cioè alla fine è il mercato che decide e che fa la differenza se uno può essere più o meno competente nel condurre una squadra o portarla a determinati risultati. Quindi io ho fatto il professionista non nel calcio ma in altro settore per 20 anni e sinceramente ne ho visti di tutti i colori, gente qualificatissima come gente magari sicuramente meno, sì, meno qualificata, magari piena di titoli e di master che non ha lo stesso talento, no? Bravissimo, sì. Bravissimo. Altra cosa per quanto riguarda quello di cui parlavate prima, quindi gli ingaggi nel Brunei a 170.000 euro o dollari a quelli che volete, sì. Io ripeto, vengo dal mondo del basket e in questo momento penso che se un giocatore di Lega A, quindi professionista, fosse offerto un contratto da 170.000 dollari, io credo che non solo va in Brunei ma forse gli lustra anche le scarpe al sultano. Sì, c'è un ascoltatore che dice vado a lustrare l'argenteria, non è necessario lustrare nulla. A me sembra che comunque per un giocatore di professionista ma di basso profilo, no? Cioè, non so cosa faccio tutto quello, ragazzi, dipende dalle alternative, cioè adesso non vuoi fare un discorso. No, ho capito Pier, però se tu mi dici le alternative, adesso vediamo, sentiamo, diremo cosa partorisce il procuratore di Matteini, che magari ha un sacco di talento, no? E quindi gli trovo un ingaggio, però dire non mi, perché non, lì non ci sto bene, no? Mi annoio, non c'ho la discoteca. Abbiamo segnato Martini in carriera, ma metti che ha messo da parte, non lo so, 3-4 sì, sì, milioni, non lo so perché non lo so nemmeno io. Se paga di Martini, magari c'ha 1,5 milioni di euro, magari fa 3 appartamenti, cioè non gli piace, sì, andare in Brunei, non me la sento di dire che è uno schiaffo alla miseria questa cosa qua, è un'offerta professionale che ha avuto, non si è trovato bene. Rinuncia a una cifra importante, assolutamente importante, che ci farebbe piacere a tutti, però voglio dire, insomma, è la sua vita e poi qua verrà, magari guadagnerà la metà, magari ne guadagna la metà, però un po' ce l'ha a parte, cioè, mi sembra una scelta di vita, insomma, siamo sempre giustamente affari romantici, e, insomma, se questo non ci sta bene, ma perché ci deve andare? No. No, apre la discoteca lì, ma non gliela fanno aprire, hai sentito che era quello, sì, il problema. Se il problema è andare in discoteca, va bene, io per carità rispetto, ma che si diverta parecchio anche in discoteca Matteini, gli auguro di guadagnare 200.000 qui, a me sembra che dire va lì, pregano tutto il giorno, non mi piace stare. Sergio, provincia di Cremona. Sì, buongiorno. Allora, so di essere impopolare, no? Perché meglio, vi vogliamo così. Volevo parlare di Matteini anch'io, siccome anch'io ho giocato a calcio, ho giocato a livello professionistico, sono stato all'estero anch'io, no? Volevo dire che, ok, plausibile, diciamo, lascia un po' il tempo che trova, la ragione, il fatto delle discoteche, del pub, eccetera, no? Però un giocatore che non ha mai guadagnato probabilmente grandi cifre e che rinuncia a una cifra importante, senza mettere davanti appunto quello che è il lato economico, ma quello che potrebbe essere il suo non stare bene all'estero, secondo me è da tirarsi giù il cappello, perché in una società come quella di oggi, dove ci si vende per ricariche telefoniche, dove il denaro viene messo prima di tutto, cioè io penso che un giocatore che fa la scelta non di denaro questa volta è da rispettare. Vabbè, io allargherei anche qui il discorso, non al giocatore ma al professionista, e va bene. Se mi ricorda tanto la storia degli italiani che vanno all'estero e stanno male perché non ci sono gli spaghetti, poi ognuno fa le scelte che vuole, lei ha ragione. Io dico, come esperienza professionale, con un po' di apertura, mi sembrano delle motivazioni un po' deboli per rifiutare un contratto professionistico di quel tipo, ma è un'idea mia, soltanto mia. Strade. Convocati. Sono sempre uno molto autocritico, quindi la colpa è soprattutto mia, quindi non ho nessun problema ad ammetterlo, e anzi, come ho detto, ringrazio il Milan perché comunque altrettanto il Milan ha fatto un grande sforzo per prendermi, quindi e il mio sono stati 6 mesi un po', come ho detto, un po' particolari, perché da parte mia c'era voglia di ripartire dopo la parentesi Juventus, e poi per problemi appunto miei di ambientamento magari in campo o, ma di nessun altro tipo, nel senso solo miei. Beh, applauso in questo caso a Matri, che non cerca mezza scusa e dice: al Milan ho fallito esclusivamente per colpa mia, quindi non do la colpa né all'allenatore, che tra l'altro è in posizione debole, è stato esonerato, quindi potrei dire quello che voglio, non do la colpa ai giocatori, al sistema, al tempo, a quello che volete, soltanto colpa mia, lì ho fallito e non ci sono scuse. Bravo in questo caso, Pardo. Ma sì, io penso di sì, insomma è stata una grande dimostrazione di stile e anche di onestà, insomma. Onestamente mi sembra difficile non essere d'accordo, no? Nel senso che poi comunque non si può dire che Madrid in occasioni non le abbia avute, c'era un allenatore che l'aveva voluto fortemente, anzi in qualche modo questi 11 milioni spesi sicuramente non sono piaciuti a Berlusconi, e credo sinceramente che non ci sia molto da aggiungere, cioè è una disamina molto seria, molto rigorosa, però condivisibile. Ma certo, ma poi io mi alzo sempre in piedi davanti a chi si prende le sue responsabilità, si assume le responsabilità, siamo abituati, siamo nel mondo dello scaricabarile, altro che se ci piace. Intanto questo messaggio: con 0 euro la Juve potrebbe rinforzarsi e vincere la Champions, vendita di Pogba 60 milioni, Llorente 15 milioni, arrivi Cavani 60 milioni, Verratti 20, Berardi gratis, questa è l'idea di un ascoltatore. Saluto e ringrazio Luca Marchetti da Sky. Ciao ragazzi, ciao. Buon pomeriggio. Ciao, dicevo prima, salary cap di Galliani, 25 milioni. 25 milioni che può gestire in autonomia, quindi senza chiedere mandati eccetera, per l'acquisto del singolo giocatore, che non deve guadagnare più di 10 milioni netti l'anno. Non mi sembrano pochi soldi, cioè mi sembrano dei soldi del tutto onesti per una società di buon livello, per una squadra ambiziosa almeno in Italia. Assolutamente sì, sono d'accordo, è un tetto molto ampio, cioè un recinto veramente che può regalare a Galliani la possibilità di fare praticamente, soprattutto in questo mercato, quasi quello che vuole senza dover chiedere autorizzazioni. Ma io immagino che Galliani le autorizzazioni le chiederebbe comunque, cioè un confronto perlomeno con papà lo fa, come ha sempre fatto peraltro ultimamente. Io credo che si sia soltanto formalizzato una cosa che già c'era, perché per gli acquisti di altissimo profilo il confronto con Berlusconi non poteva non esserci. No, questo è evidente, però Pier, se si parla di salary cap, mi sembrano cifre realistiche, dicevo, per una società con ambizioni, mentre non mi sembrano realistiche quel salary cap, non so se è vero o presunto, dell'Inter a 2,5 di ingaggio, 2 milioni e mezzo di ingaggio. Sì, poi sai, i salary cap, finché sono una specie di codice interno, possono anche avere delle eccezioni, no? Per esempio la Roma nel passato aveva un salary cap, però poi c'era l'eccezione di Totti, ovviamente, che per quello che aveva dato aveva un regime completamente diverso. Io credo che sia importante il tentativo di questa società di darsi una regola, Poi è ovvio che nella vita tu puoi anche fare degli investimenti un pochino più... Però scusate se mi interrompo, sì. Ma il salary cap credo che sia per Galliani, cioè Galliani può fare in autonomia operazioni fino a questo punto, non è un salary cap del Milan, da quello che ho capito io. Uh-huh. È così. Quindi voglio dire, il Milan se vuole può anche spendere di più, non è una regola interna, è il limite che ha Galliani per agire in autonomia. Quindi poi dopo... confrontandosi con Barbara Berlusconi e con Silvio Berlusconi, certo, può anche decidere di spendere. Ma comunque nel complesso, ripeto, e voglio sentire la fine del discorso di Pardo, mi sembra un range accettabile per una squadra con ambizione. Sì, però a questo punto, scusate, se il salary cap riguarda Galliani, cambia tutta la nostra valutazione, e mi scuso per non averlo colto prima, perché insomma, se stiamo parlando di questo, stiamo parlando essenzialmente di una sorta di tutela o di tutor che viene posto per operazioni particolarmente onerose su, esatto, un uomo che da sempre è abituato a spendere i soldi con una grande autonomia. Quindi insomma, adesso cercheremo di capire qualcosa di più da questo punto di vista, ma se fosse in questa interpretazione qui, è chiaro che è un forte limite alla sua possibilità di spesa, ed è quasi però forte no, Pier, forte no, cioè se tu puoi spendere 25 milioni di euro per un cartellino senza dover chiedere nulla e arrivare fino a 10 milioni di euro di ingaggio, insomma puoi praticamente prendere chiunque in questo mercato, al di là dei super campioni per i quali comunque un confronto con Berlusconi c'era sempre stato, perché figuriamoci se Galliani prima di prendere Nesta, appunto, non ha chiamato Berlusconi. No, ma altro tema su che esula da Galliani. Leggo di questo interessamento del Borussia Dortmund per Ranocchia, che dice: vi diamo 7 milioni. Non mi sembra una brutta valutazione. L'Inter dice: meno di 15 non se ne parla neanche. Cioè, Toir non vuole investire tanto, ovviamente vuole coprire, sistemare il bilancio, però i suoi li vuole vendere a peso d'oro. 15 per Ranocchia mi sembra tantissima roba, Sì, io non so se è arrivata, cioè io non ho certezza che sia arrivata l'interesse, è sicuramente del Borussia Dortmund. Il valore di Ranocchia forse è leggermente superiore, non certi 15 che chiede l'Inter in questo momento. Il problema è che l'Inter deve autofinanziare il proprio mercato, e quindi è chiaro che vuole vendere a tanto e comprare a poco. Sì, anch'io. Esatto. Anche Pardo vuole vendere a tanto e comprare a poco. Sì. Questo è l'obiettivo di tutti della nostra vita. Mi sembra la valutazione, mi sembra comunque abbastanza congrua, cioè l'Inter può tirar fuori qualcosa in più, sicuramente può chiedere 10, ma insomma io non credo onestamente che siamo molto distanti dal valore in questo momento di Ranocchia, poi certamente Ranocchia ha perso delle occasioni, si è trovato forse in delle situazioni sbagliate rispetto, ricorderete che Ranocchia e Bonucci erano i due centrali di Ventura a Bari, e parlando con Ventura lui spesso ha detto che dal punto di vista tecnico Ranocchia era addirittura più dotato di Bonucci, che pure è un ottimo giocatore, uno che ama spesso partire palla al piede, che fa qualche errore ogni tanto, lo fa addirittura per troppa sicurezza proprio perché ha una grande qualità tecnica, però ecco la differenza nelle ultime stagioni è stata enorme, perché uno si è trovato a giocare nella migliore difesa d'Italia e l'altro invece ha faticato, ha avuto fasi positive, fasi negative, per cui secondo me quella valutazione lì ci sta, onestamente. Poi comunque scadenza, ragazzi, scusatemi perché ho una notizia pessima per i tifosi del Milan, per Seedorf, anche per il calcio italiano e per Prandelli, perché altro infortunio non banale per Pazzini, lesione agli adduttori della coscia destra, esami tra 10 giorni, l'aria è quella della stagione di nuovo finita. Lesione agli adduttori. Strappo agli adduttori, sai, se è lesione agli adduttori. Lesione agli adduttori, insomma, si parla di un bel po' di tempo. No, più che altro che se gli esami sono fra 10 giorni, non è uno stiramento. Certo, appunto. Perché vuol dire che in questo momento non sono in grado di valutarlo. Esatto. Con Matri che è appena andato via, auguri Clarence, auguri zio Clarence. Pier, grazie, ci sentiamo domenica, direi. Quando vuoi. Ciao, ciao, Pierluigi Pardo, padrone di casa qui, Luca Marchetti da Sky, ciao. Ciao a tutti. Noi abbiamo GR, subito dopo torniamo naturalmente con voi, 800 24 00 24, numero verde. Tutti convocati. Roll another blunt. Yeah. Okay. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la to clean my room until I got high. Proponiamo questa per il trailer del prossimo campionato NFL, National Football League, football americano naturalmente, pieni playoff, si va verso il Super Bowl del 2 di febbraio, si disputerà in New Jersey. Ma perché il trailer? Perché questo trailer, questa musica per il trailer del prossimo campionato NFL? Fumo libero, signori. I vertici dell'NFL sono convinti che la marijuana funzionerebbe molto meglio dei farmaci antidolorifici attualmente utilizzati dai giocatori. E dunque la proposta shock è questa. Si tratterebbe di una svolta nel mondo dello sport, mai se ne era parlato prima d'ora, però uso della cannabis a scopo terapeutico per alleviare il dolore fisico dei giocatori dell'NFL. Certo, sì, se ne danno secche, però questo mi sembra davvero, davvero tanto. Non è una butad, è una proposta vera, reale, concreta. L'ha annunciata il commissioner della NFL, Roger Goodell. Questa voglio proprio vederla. Marcello da Bologna, buongiorno. Buongiorno, Marcello da Bologna, sempre convocato. Sempre convocato. Allora, io vorrei, sempre titolare. Magari. Volevo intervenire sull'idea di Sedov, di questi suoi collaboratori, no? Sì. Che anche nelle chiacchiere da bar sembra che una novità. Ma lui non fa altro che importare il modello olandese dell'Ajax, che sotto la supervisione di Cruyff lo fanno già. Sì. Perché io poco tempo fa ho visto un'intervista a Cruyff in cui diceva che è impensabile che nel calcio ci sia un allenatore solo per tante persone, quando nel golf un giocatore solo per ogni colpo ha un allenatore. Sì, gli olandesi sono spesso rivoluzionari, certo è qualcosa di inedito, quantomeno su larga scala, no? Poi non è neanche un'idea totalmente nuova, perché parlavo prima di NFL sotto altri punti di vista, però sapete benissimo, o meglio, immagino che molti di voi sappiano che nell'NFL c'è l'allenatore della difesa, quello dell'attacco, quello del kicker, quindi ogni ruolo, ogni pacchetto ha un suo allenatore responsabile, e poi al vertice c'è il head coach che prende decisioni strategiche e che tira le file di tutto quanto il discorso. Ma questo tipo di questo stile di lavoro vale anche nel basket. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the dispenser on time. Ciao coach Dan Peterson. Ciao cari amici sportivi, buongiorno a tutti. Ho raccontato di questa storia della marijuana e dell'NFL, eh? L'hai sentita? C'è marijuana nell'NFL adesso? No, il commissioner vuole legalizzarla come antidolorifico per i giocatori. Ah beh, questo... Tanta roba, tanta roba. E poi ci sono alcuni stati, tipo Colorado, altri, che hanno legalizzato la marijuana adesso, quindi... e tutti saltano a bordo questo treno, adesso vediamo come andrà a finire. Senti, parlavamo anche con l'ascoltatore di prima di questo modello che vuole lanciare Sedor. A proposito, cosa ne pensi di Sedor allenatore? Cioè diventa allenatore prima, cioè, firma il contratto, dicevo prima, da capo allenatore professionista prima ancora di fare il primo allenamento da allenatore professionista, direttamente dal campo alla panchina, boom. Well, ovviamente lui sa benissimo di avere qualche difficoltà, perché quando tu passi dal campo alla panchina non è così facile, e lui, e per questo mi piace la sua idea di avere un offensive coordinator, defensive coordinator. Ti piace? Perché vuol dire che non arriva, l'ho scritto anche ieri per la Gazzetta, non arriva come eccomi, spacco tutti, sono il genio della situazione. Lì dice, ehi, anch'io devo imparare, cioè proprio con umiltà. Anche nel NBA, per esempio, Jerry West, il mitico super giocatore Jerry West, è diventato coach dei Lakers negli anni 70, ha preso Jack McCluskey per la difesa, ha preso Stan Hollenbeck per l'attacco, ha detto fatemi voi. Billy Cunningham, diventato capo allenatore di 76ers, Jack McMahon per la difesa, Chuck Daly per l'attacco. Quindi questa non è una novità, ma anche il mitico Phil Jackson. Certamente. Con Tex Winter per l'attacco, Frank Hamlin e altre persone, Johnny Bach era per la difesa, tanto per dire. Quindi è una buona idea per un allenatore che non ha grande esperienza. Quello che deve fare Seedorf adesso è prestare tutto il suo carisma, personalità, conoscenze del gioco alla direzione delle partite, eccetera. Gli allenamenti e le altre cose verranno sistemate. Come fa Arsene Wenger lì a Arsenal, che è proprio uno staff che fa tutto, e lui è quello che prende le frecce nel petto, come mi piace dire. Questa è bella, non te l'avevo ancora sentita dire. Coach, tra l'altro vuole fare un po' il Phil Jackson, no? Leggevo che vuoi consigli dei libri ai giocatori. Sappiamo bene la storia di Phil Jackson, che era solito regalare libri a tutti i suoi giocatori, personalizzati a seconda della loro, così, del modo di essere. Non so se poi Shaquille O'Neal abbia mai letto i libri di Phil Jackson. Questo non lo so, no, però lo so. Io ti dico, se io sono un giocatore di Phil Jackson e me lo fa, apprezzo molto il gesto, okay? Che lui ha pensato a me singolarmente, ha scelto per me, ha regalato a me, cioè, anche se non lo leggo, c'è anche un messaggio lì, il titolo, il soggetto del libro, il trama, cioè, l'apprezzo molto, cioè, questa è un'idea molto geniale, molto umana, diciamo, di Phil Jackson, approvo al 100%. Mi pare che a Shaquille O'Neal avesse regalato Siddhartha. Se non ricordo male. Coach, invece sono un po' preoccupato per il nostro Danilo Gallinari. Ho letto un'intervista l'altro ieri sulla Gazzetta, dice: ma ginocchio ok, sto recuperando, però devo allenare anche la testa, perché rientrare, quello è un campionato pazzesco dal punto di vista fisico. Sì. Il problema per Danilo adesso sarà, diciamo che rientra mesi prossimo, come dicono, lui ha anche messo qualche dubbio su questo, giustamente. Loro devono curare, lui deve curare questo bene. Se lui sente un dolore, deve dire: coach, ti sento un po' qui, esco, riposo, trattamento, eccetera. E la società deve dire: ehi, questo ragazzo all'inizio non gioca, invento io una cifra, più di 16 minuti a partita, poi 18 e poi 20. Devono veramente controllare tutto con grande attenzione, perché io ho sempre la paura del rientro troppo presto. Però dall'altra parte guarda Derrick Rose, che è aspettato, appunto, secondo tutti, molto troppo tempo, rientrato, non lo stesso infortunio, ma un altro infortunio. Quello che rientra dall'infortunio, hanno perso il ritmo del gioco, è lì che nascono spesso gli infortuni. Quindi è veramente una situazione molto complicata. Cioè, tu dici che Derrick Rose ha aspettato troppo per rientrare? Yeah, per me sì, ok. Quindi bisogna sapere quando non è troppo presto e non è troppo tardi, e bisogna anche fare a piccoli passi. Magari Danilo Gallinari deve giocare 3 minuti in una partita, e poi 5 minuti in un'altra, poi 7, poi 9, aumentare così o lentamente. Sì, chiaro. Per annusare di nuovo il profumo della partita, dell'agonismo, del sangue agonistico. Coach, grazie, ti abbraccio, ci sentiamo venerdì. Ciao a tutti. Ciao. Dan Peterson. Ci fermiamo qui, Franco Piantrini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, su anche la summa di ciò che avete sentito questa settimana in tutti i convocati. Ci sentiamo lunedì. Massimo Oddo, ciao! Buon pomeriggio a tutti. Frase di circostanza, di retorica, ma vera, non è che si possono cacciare i giocatori, chi paga è sempre l'allenatore. Io credo di poter dire che quando un allenatore va via gli si attribuiscono tutte le colpe, ma poi in fondo non è così, perché è un connubio di tanti fattori dove ognuno ha le proprie colpe. Luca Banchi, buongiorno! Salve, buongiorno a tutti. Ci siamo assunti le nostre responsabilità, abbiamo puntato su una squadra, ci auguriamo, molto performante, per